America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Secretary Clinton, I want to start with you. Will you say anything to get elected? I want to make sure that I can look into the eyes of any middle class American and say this will help raise your wages, and I concluded I could not. Ecco, avrete sicuramente riconosciuto la voce di Hillary Clinton che risponde a una domanda, come avete sentito, dal tono molto aggressiva. Ecco, a me interessa la persona che ha fatto la domanda. Non avrete riconosciuto naturalmente la voce, però è Anderson Cooper, giornalista di punta della CNN, ed è il giornalista di punta non soltanto della CNN col suo programma Anderson Cooper 360 gradi, ma è uno dei giornalisti più conosciuti in America. Ecco, perché parliamo di Anderson Cooper? Sentiamo. And this is what he looked like when you first met him? I knew him for a week and married 3 weeks later. Really? How old were you? 20. Did any of your friends think it was weird? I don't know. I mean... Ecco, questo che avete ascoltato è un estratto di un documentario di HBO, della rete televisiva a pagamento americana, che fa dei programmi molto belli, li vedrete alcuni di questi anche qua in Italia, che ha dedicato un documentario dedicato a Anderson Cooper e a sua madre. Perché? Perché sua madre è una grandissima celebrity americana, Gloria Vanderbilt. Ad alcuni di voi magari suona il nome Gloria Vanderbilt perché è stata la prima a inventarsi il designer jeans. Ma Gloria Vanderbilt non è soltanto una designer di moda, è anche l'erede diretta di una delle più grandi famiglie americane, la famiglia di Cornelius Vanderbilt, che ha contribuito alla costruzione delle ferrovie americane in generale, ma soprattutto a New York ha costruito Grand Central Station, che è direi un monumento centrale per la città, e la statua di Cornelius Vanderbilt è proprio lì davanti alla stazione. She's the last person in my family alive, so I don't want there to be anything left unsaid between us. Ecco qui Anderson Cooper che parla del documentario e dice: mia madre è l'unica persona rimasta in vita della mia famiglia e non voglio che rimanga nulla di non detto fra noi. E infatti il documentario si intitola Nothing Left Unsaid e devo dire è una storia tragica nel vero senso della parola, una tragedia americana, intanto perché Gloria Vanderbilt nasce nella più importante famiglia dell'epoca, ma il padre muore giovane e la madre ovviamente ne ha la custodia, ma una zia si inserisce nella vicenda, fa causa in tribunale per ottenere la custodia della nipotina, vince e questa bambina piccolissima, 7-8 anni, viene strappata alla madre e affidata a una zia che tutti ovviamente dicevano era cattiva, fu una storia su tutti i giornali americani. Poi Gloria ha avuto 4 mariti, il quarto è appunto il padre di Anderson, Wyatt Emory Cooper, che è un commediografo, è un giornalista che viene dal profondo sud, da una famiglia povera del Mississippi. E poi finalmente lei trova quest'uomo, si sposano, hanno 2 figli, appunto Anderson e poi il fratello Carter. Però improvvisamente muore Wyatt, muore a 51 anni, pensate, giovanissimo, quando Anderson aveva 9 anni e il fratello Carter ne aveva soltanto 11. Dramma nel dramma, fast forward come si dice, facciamo un balzo di una decina d'anni, Gloria Vanderbilt è da sola a casa, Park Avenue, uno di questi grandi appartamenti lussuosi, residenziali al centro di New York, appunto su Park Avenue. Il figlio Carter è con lei in casa. A un certo punto sono nella stessa stanza, ma Carter, che si era appena laureato e che ha 23 anni, va di corsa al piano di sopra. Non è chiaro se avessero litigato, se si fossero detti delle cose cattive. Fatto sta che Carter va di corsa al piano di sopra, entra nella camera di Anderson, apre una finestra e si sporge sul balcone. La madre lo insegue, lo vede che si sporge su questo balcone, lui a quel punto si gira fuori dalla balconata, si appende con le mani e molla le mani e muore, si suicida. Ecco, è stata, questo è il 1978, questo giovane aveva 23 anni e Anderson ne aveva appena 21, potete immaginare il suicidio del figlio della più grande ereditiera americana, di nuovo storie di prima pagina in tutti i giornali. E dunque questo documentario ricostruisce questa tragedia americana, devo dire, benissimo, e ho avuto la fortuna di vederlo in anteprima e di partecipare a un party dove c'era la Great Society, la società newyorkese. Ecco, il party, vi dicevo, grande society newyorkese, era la Porter House Bar and Grill, che è questo meraviglioso ristorante, questa steakhouse all'interno del Time Warner Center su Columbus Circle, con vista sul parco, e lì ho incontrato Anderson Cooper. Gli ho chiesto nel documentario quanto doloroso sia stato ripercorrere non solo il cammino della vita di sua madre, ma anche il momento in cui il fratello si è suicidato. Che cosa si sono detti prima, dopo? Sentiamo. How was it to go down memory lane in a way? It really started with... Devo dire che è stato straordinario. Mia madre stava per compiere 91 anni e ho iniziato a pensare che non volevo lasciare nulla di non detto tra noi, nessun segreto. Quando mio padre è morto avevo questa fantasia, questo desiderio, che lui mi avesse scritto una lettera che qualcuno mi avrebbe poi dato al compimento dei miei 18 anni o dei miei 21. Nessuna lettera però è mai arrivata e mia madre ha avuto la stessa fantasia quando suo padre morì. Perciò non volevo che accadesse la stessa cosa tra me e lei. Non volevo che rimanesse qualcosa che io non conoscessi di lei. Perciò abbiamo iniziato ad avere questa conversazione e credo sia un qualcosa che molti genitori dovrebbero fare con i propri figli e qualcosa che molti figli vorrebbero fare con i propri genitori. Ecco, devo dire, non potevo chiudere la mia chiacchierata con Anderson Cooper, che vi dicevo uno dei più grandi giornalisti politici americani, è lui che, insieme ad altri naturalmente, che modera il dibattito, ecco, non potevo non chiedergli una battuta su queste elezioni. Cosa ne pensa? Ecco la sua risposta. About the election, things are getting more complicated, aren't they? It's the most complex election I've ever covered. Si tratta delle elezioni più complesse che io abbia mai seguito da giornalista. Nessuno ha idea di quello che accadrà. Tutti pretendono di saperlo, pensano di saperlo, ma chi lo afferma non sta dicendo la verità. Si tratta di elezioni straordinarie. Credo che Donald Trump abbia realmente delle ottime possibilità di essere il candidato per il Partito Repubblicano. Guardando già alle elezioni generali di novembre, credo che sarà una corsa molto difficile. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di questo rapporto tra madre e figlio, di un grande giornalista americano che tutti conoscono soprattutto come giornalista, ma non come erede diretto di una delle più grandi dinastie che ha vissuto una storia drammatica all'interno di questa sua famiglia. E dunque, nel rapporto tra madre e figlio, che poi è il tema centrale del documentario di HBO di cui vi ho parlato, dedichiamo la canzone del giorno, beh, alle madri, e dunque Mother dei Pink Floyd. Hush now, baby, baby, don't you cry. Mama's gonna make all of your nightmares come true. Mama's gonna put all of her fears into you. Mama's gonna keep you right here under her wing. She won't let you fly, but she might let you sing. Mama's gonna keep baby cozy and warm. Ooh, baby. Mama's gonna help build the world. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!